Una buonasera, Re di Città del Capo, Max Macchia in compagnia di 451 frammenti sonori, o forse insomma protagonista di 451 frammenti sonori, o forse, come dire, traghettatore di 451, e quindi così traghettatore di musiche speciali, non speciali, comunque di musicalità insomma altre, che si cibano comunque di alterità, ed è questo un po' che vogliamo chiaramente. Io, Max Macchia, Eliseo Scarpa, anche Lorenzo Albano, che non ama essere citato in trasmissione, ma in realtà insomma anche lui è uno di 451 frammenti sonori, se non altro perché utilizza sia il blog, appunto 451frammentisonori.noblogs.org, sto ripetendo in continuazione 451 frammenti sonori, così l'ho detto anche per la sesta volta, magari non lo dico più per questa sera, per ricordarvi, per insomma rimarcare, come dire, una trasmissione che da un po' di anni vi fa compagnia, un po' di anni dentro quelle che sono sonorità che viaggiano in parallelo magari, o perché no, dentro mondi che possono essere insomma per quanto alterati reali. Questa sera poi parliamo di rudimenti, quindi più di reali di questo materiale grezzo, rudimenti, trasmissione già di qualche settimana fa, seconda parte, beh, avevamo un po' promesso che ci sarebbe stato una continuazione, sempre alla ricerca di questo materiale grezzo che poi sta dando vita in questi ultimi tempi a una techno horrorifica, una industrial dance decisamente ispirata, insomma i primi non bagliori, perché di bagliori proprio non si può parlare, anzi di ombre, e provengono addirittura dalla fine degli anni 90, primi anni zero, e in effetti questa seconda parte di 451, l'ho ridetto, perdonate, e, inizierà proprio dove è finita la scorsa trasmissione Rudimenti 1, ovvero Sandwell District, era una delle progettualità messe nella seconda parte, progettualità fondamentale sia come etichetta legata a questa techno, memore appunto di quello che fu un suono metallico, una metal dance decisamente ombrosa, anche con un forte senso distopico, un po' anche sul ritorno di quello che è una delle grandi distopie di questi anni, ovvero il suono urbano e forse anche post-urbano, nel senso veramente anche di post-città, di qualcosa che va anche proprio oltre, va forse verso i ruderi quasi più che i rudimenti, e quello del dubstep chiaramente, e anche cercando insomma una strana affiliazione tra techno, quella più appunto più metallica, e il dubstep più spinto in termini di distopia, sia questo sonorità che Sandwell District stanno sia come etichetta che come progetto a sé, portando in maniera particolare insomma l'orecchio un po' degli ascoltatori, quelli un po' più sensibili alle materie post techno, quindi alle musicalità tecnologiche che creano un nuovo immaginario, o che comunque insomma appartengono a già un discorso che è molto lontano nel tempo, come l'altra volta abbiamo iniziato con proprio Cabaret Voltaire, ma che sì, per tanti altri versi non in maniera sotterranea, come alcuni anche critici hanno intravisto nelle musiche e techno anche più spinte degli anni 90, se pensiamo al suono di Jeff Mills, tanto deve anche egli a quella materia sonora industriale, o a certe cose insomma che sentiremo anche questa sera nella seconda parte, tanto per girare intorno a Panasonic, insomma. E Sandwell District, avendo appunto questa memoria, ma anche una spinta decisamente futuristica, stampano attualmente cose molto molto belle, anche Memory, proprio appunto anche nello stesso progetto che va avanti da quasi 10 anni, anche di quelle che sono state le loro sperimentazioni, c'è una sorta di fil rouge dentro questa techno. Function, progetto di uno dei fondatori di Sandwell District, O'Connor, è uscito con un album decisamente bello proprio in queste ultime settimane, anch'esso titolo piuttosto apocalittico, Incubation, se non apocalittico quantomeno preoccupante. Function, quindi, per andare sui nostri rudimenti, sempre alla ricerca di questo battito metallico, battito industrial, post-industriale e futuristico, che appunto stiamo cercando di rintracciare, ovviamente fallendo, ma meravigliosamente fallendo, qua a Rudimenti 1 e a Rudimenti chiaramente 2 di questa sera. Function. Bene, ci siamo ascoltati in maniera così un po' ortodossa Function, qualche problemino con riproduttori audio, ma quantomeno insomma siamo riusciti comunque ad ascoltare parte del suo splendido lavoro come Incubation, disco uscito tra l'altro da pochissimo. Prima confondevo Regis, che ascolteremo tra poco, che lui O'Connor, in realtà Function è David Sumner, e appunto con O'Connor, fondatore del Sandwell District come collettivo. E per quanto riguarda come discorso poi legato all'etichetta, c'entra anche un certo female, un certo, nel senso che gli ascoltatori, quelli un po' più così avvertiti sulla materia techno, conosceranno magari il discorso insomma della Sandwell District, o comunque stanno imparando a conoscerlo, quindi stanno imparando anche a conoscere di fatto female, stampa anche lui da un po' di anni. Infatti andiamo a recuperarcelo proprio con un disco di qualche anno fa, un doppio EP decisamente interessante, proprio a rintracciare il rudimento di Sandwell District, quindi di questa techno tanto rudimentale nel suo farsi metallo sonante, sonoro, metallo urlante, anche così citando storico fumetto, molto insomma in linea fantascientifica con quello che poi sarà anche certa musica in industrial, soprattutto insomma in versione dance cyborg, un po' come anche il sottofondo che abbiamo in adesso 451, ovvero Channel One, per gli avvertiti di Detroit, quindi dei primissimi techno sound che formarono appunto la materia sonora poi di quello che diventerà la techno di Detroit. Ma questa comunque è una storia parallela, anche per molti versi insomma affine a quello che stiamo trattando questa sera con Rudimenti 2, ma andiamo a prendercela forse più nella così nell'accezione di female, quindi in un'accezione magari così più europea, nel senso quella wave, quell'oscurità wave che dentro la techno di Detroit c'era, ma soprattutto collegata a un electro funk più utopico o più così fanta black che distopico, come molta musica industrial wave invece europea. Female. Beh, ci siamo ascoltati Female, questa rabbia ruggente, per un disco della fine degli anni 90, Angel Plug, disco tra l'altro notevole proprio di Peter Sutton, che insieme a Regis tra l'altro fondava la Downwards, dove anche David Sumner H-Function lavorava e giracchiava in termini anche piuttosto curiosi, curiosamente creativi, seppur una techno insomma underground, forse fuori da quello che poi sarà lo sviluppo di una techno ridotta all'osso, non tanto come volevano loro appunto in termini di rudimenti, di industrial dance, ma un quanto insomma lo sviluppo di quello che sarà la minimal techno, che poi in una sorta di riduzionismo anche paradossale arriverà semplicemente alla minimal, alla micro. Invece appunto Function, Female, Regis, che tra poco ascolteremo, proprio con la loro Downwards portavano avanti invece un lungo discorso portato già insomma non in auge, ma sicuramente insomma a livelli artistici notevoli, da alcune formazioni industrial wave, industrial dance, body music, poi veramente i termini hanno un valore che hanno, nel senso che sono indicativi, ci danno quindi delle indicazioni soprattutto storiche, delle indicazioni di attitudini, quando non insomma di sonorità sperimentate in un certo qual modo, in una certa qual direzione. Function, Female, Regis sicuramente insomma cercavano di portare sempre a un grado zero questa tecnologia e questa techno dal valore appunto assolutamente grezzo, volutamente con la forza appunto del rudimento, del basico forse, che cercavano e cercano tuttora, perché se abbiamo sentito Function 2013, Female invece con il suo Angel Plug del 1999 addirittura, Regis andiamo a trovare dopo anche lui una carriera più che decennale, proprio col suo ultimissimo disco That He'd Said, anche qua decisamente interessante la faccenda. Ci andiamo proprio a ascoltare da questo piccolo gioiello che viene appunto dai nostri giorni, come dire, un'importanza riattivata, ricreata dentro quel suono assolutamente fondamentale del metallico dato dentro il tecnologico. Regis. Beh, notevole il discorso di Regis, proprio per impatto sonoro sempre costante nei suoi album, decisamente techno. D'altronde, insomma, è uno dei nomi veramente, forse uno degli eroi dell'underground, se ancora, insomma, si può parlare di eroi, forse di anti-eroi, visto, insomma, un'idea decisamente, insomma, distopica della faccenda anche techno, che insomma nasceva comunque per tanti aspetti in questa maniera, se pensiamo, insomma, alla techno originaria, quindi alla techno rudimentale, sì, una fantascienza, ma che spesso, insomma, andava a scontrarsi con stelle scure, oppure andava a scontrarsi con realtà talmente spinte, e quindi iperrealismo portato all'eccesso, tale da portare veramente anche a visioni decisamente allarmate e allarmanti di quello che il piano sociale insomma stava portando. Buona parte poi di questi discorsi, che chiaramente stanno sotto le musicalità che stiamo ascoltando questa sera, partono da, se pensiamo a Detroit, dal grande licenziamento di massa che ci fu nella prima metà degli anni Ottanta da parte, insomma, dell'industria automobilistica, quindi di una situazione, insomma, sociale piuttosto deflagrante, e quindi un immaginario anche già in una città difficile come Detroit, che portava una contraddizione fortissima, sì, una spinta futuristica che partiva appunto da una rabbia, o comunque da anche una alienazione, che ha portato sia a un disegno così escapico, e quindi di fuga interstellare, ma anche di scontro, e addirittura le due cose si sono anche unite, se pensiamo a Underground Resistance, che insieme a Jeff Mills potrebbero essere uno dei due rudimenti fondamentali della Detroit più metallica, più urtificante e più anche generante, in questo senso, quasi una filiazione impossibile appunto tra le ferraie di certa techno. Ma tant'è che, insomma, se UR e Mills sono stati presi come riferimento da Function Female Regis e anche da Portion Reform, che adesso stiamo andando per ascoltare, e probabilmente, insomma, per quanto una filiazione piuttosto contro natura o innaturale, visto che forse è più vicina a un'idea di Tetsuo, quindi a un'idea, insomma, di riproduzione metallica, che più che un'idea, insomma, di filiazione così naturale, siamo nel regno veramente dell'artificiale, volutamente artificiale, con Sandwell District e con Portion Reform, che è proprio il progetto di Carl O'Connor, ovvero Regis, e David Sumner, ovvero Function, insieme anche con comunque la collaborazione di Female, che poi diventerà, insomma, protagonista di Sandwell District, ascoltato in Rudimenti 1 da queste parti, appunto continueranno ed evolveranno quella materia così psicometallica di Mills e Underground Resistance. E andiamo quindi a chiudere, a far quadrare un cerchio con Portion Reform, proprio perché con questo progetto si formava quella progettualità che ci porterà appunto ai nostri giorni di Sandwell District. Vi lascio con questo progetto storico proveniente, insomma, già dal 98, una delle prime uscite di Downwards, che anticipava l'etichetta che anticipò Sandwell District e anche il progetto. Sono tutte e due legate le faccende, perché Sandwell District, oltre che essere appunto un progetto molto interessante delle nuove techno, è anche un'etichetta storica E appunto, andando a prendere i personaggi che hanno fatto grande questa etichetta, ci andiamo proprio a sentire Portion Reform con il loro Supreme Negative, così insomma capite di che materie, di che umori stiamo parlando.